Speciale Europei 2008. Buongiorno da Dario Ricci. Comincia nel peggiore dei modi l'avventura dell'Italia a Euro 2008. A Berna l'Olanda travolge gli azzurri in una gara senza storia. Una batosta tremenda. Italia 0, Olanda 3. L'europeo per gli azzurri peggio non poteva cominciare. Sugli spalti a Berna i tifosi olandesi erano più numerosi degli italiani, ma anche in campo l'Olanda sembrava avere almeno due uomini in più. La partita gira male con il gol indiscusso fuorigioco di Van Nistelrooy già dopo 20 minuti. L'Olanda domina e raddoppia nel primo tempo con Sneijder. Il terzo gol arriva con Van Bronckhorst, nel miglior momento dell'Italia. Ma la sconfitta è pesante e netta. Donadoni ha sbagliato molto proponendo un Materazzi inguardabile e un Panucci con le gambe molli. Per l'Italia c'è poco da salvare. Forse solo l'agonismo e qualche giocata di chi è entrato nel secondo tempo. Del Piero, Cassano e soprattutto Grosso. Adesso l'Italia dovrà battere la Romania e poi giocarsi tutto contro la solita Francia. Ma qualcosa Donadoni dovrà cambiare. Luca Veronese, GR24, Il Sole 24 Ore, Berna. L'analisi del CT Roberto Donadoni a Rai Sport. Abbiamo subito due gol commettendo degli errori, questo indubbiamente, ma al di là di quello non è che l'Olanda ci abbia così sovrastato. Siamo partiti bene, poi dopo forse pagando un pochettino così l'approccio alla prima gara, poi questi gol ci hanno chiaramente condizionato, è stato tutto inserito, abbiamo cercato poi nel secondo tempo di riprovarci, direi che dal punto di vista della volontà i ragazzi hanno risposto bene, abbiamo avuto anche delle buone occasioni, ma nella serata per buttarla dentro e anzi abbiamo concesso ancora qualcosa per loro. Recriminazioni per il primo gol olandese di Van Nistelrooy segnato in fuorigioco, ma Gigi Buffon da capitano chiede scusa a tutti i tifosi. Beh, quello lì è un fuorigioco netto, però non è che ci si può appellare in una partita simile strapersa a certi alibi. Abbiamo perso meritatamente, complimenti a loro e chiediamo scusa agli italiani e mi auguro che dalla prossima riusciamo di nuovo a ritrovare quell'orgoglio da contraddistinto. Luca Toni guarda già venerdì alla sfida ora decisiva con la Romania. Siamo partiti male, perché abbiamo fatto una brutta partita, penso soprattutto un brutto primo tempo dove penso che sia stati un po' troppo rinunciatari. Poi loro hanno fatto gol le prime occasioni e si è messa subito molto male. Dobbiamo cercare di dimenticare subito questa partita e concentrarci nelle prossime due perché possiamo ancora passare facendo degli ottimi risultati, quindi dobbiamo pensare positivo. E proprio nell'altra gara del gruppo C, i romeni hanno bloccato sullo 0-0 la Francia. Sterile la supremazia dei transalpini di fronte al catenaccio di Mutu e compagni. Abbiamo giocato una gara troppo difensiva, spiega il francese Claude Makélélé, e abbiamo avuto difficoltà ad attaccare in velocità la difesa romena. Ma non dobbiamo preoccuparci, abbiamo ancora due partite da giocare. Venerdì i francesi affronteranno proprio l'Olanda. Oggi intanto in campo il gruppo D. Alle 18 a Innsbruck la Spagna di Torres e Fabregas affronta la Russia priva dell'infortunato centravanti Probrebniak. Alle 20.45 a Salisburgo l'esordio dei campioni in carica della Grecia che sfidano la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Come d'abitudine seguiremo Euro 2008 con speciali, collegamenti, interviste fino a questa sera. Alle 14 in particolare a Tempo di Sport speciali europei e dalle 22.30 allo speciale per commentare insieme le gare della giornata. Un saluto da Dario Ricci.